Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:06, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero. Oggi so già che discuteremo io e voi ascoltatori e poi anche con gli ospiti che ho già qui davanti a me, che poi vi presenterò, perché oggi parlerò di un argomento che ogni volta divide, fa discutere, poi mi arrivano i messaggi che conosco già, tipo: ma è una radio come Radio 24, parli di queste cose. Sì, parlo anche di queste cose e voglio farlo con voi. Adesso vi lascio lì un attimo, perché prima, come sempre, vi dirò che anche oggi intorno alle 11:45 giocheremo con Manè, e quindi la possibilità di portarvi a casa i biglietti d'ingresso per la mostra che c'è a Venezia, Manè Ritorno a Venezia, Palazzo Ducale, e dovete cercare di associare il titolo di un'opera di Manè a una canzone che vi farò ascoltare. La canzone è questa. Notte di colpo la notte, il cuore che batte è fermo oramai. Ecco, non è proprio nuova, però sicuramente molto molto popolare, e questa canzone dovrebbe farmi venire in mente il titolo di un'opera di Manè. Dovete cercare di dire il titolo e indovinare, poi vi aiuterò chiaramente più tardi per portarvi a casa appunto i biglietti della mostra. Il numero verde per prenotarvi già da adesso: 800 24 00 24. E veniamo invece all'argomento della puntata di oggi. Ci ha lasciati Margherita Hack proprio ieri, un'astrofisica che ha sempre, insomma, sostenuto giustamente le sue teorie scientifiche e che è sempre stata contro l'astrologia. Noi oggi non vogliamo essere con l'astrologia, ma cercheremo di unire le due cose, ovvero cercare di unire la vita quotidiana anche alle previsioni astrologiche. Se poi previsioni si possono anche, non è detto che si debbano chiamare così, previsioni, vedremo se si possono chiamare così o possiamo chiamarle inclinazioni. Insomma, cercheremo di raccontare questo e altro per capire se il destino è scritto da qualche parte. Molti di noi lo vorrebbero sapere in questi momenti così difficili per tutti. C'è l'esigenza, come una volta, di tornare a capire come andrà, e vedremo un po' di giocare un po' con l'astrologia, ma non soltanto, parlarne anche seriamente e parlarne anche al contrario, cioè parlare di scienza, di capire come per esempio la nostra mente e il nostro atteggiamento può in qualche modo influenzare anche la nostra vita. Quindi cercheremo di avere un approccio sia scientifico sia non scientifico, ma astrologico all'argomento. Insomma, scritto nel destino, voi ci credete o meno, cercate da qualche parte di capire come sarà il vostro futuro. Di questo parleremo, ma anche d'amore, perché l'amore sarà il centro di tutta la puntata di oggi, e poi capirete perché. I nostri messaggi, anzi i vostri, al 349 238 6666. Parlando in mente di destino, non può che venire in testa una bellissima canzone di Mario Venuti che si intitola appunto Fortuna. Rivisitata e corretta, diciamo così, di Mario Venuti di Fortuna, anche più brasiliana di quella originale, che era, aveva più testo in italiano. Allora, abbiamo introdotto così con Fortuna perché la domanda di oggi è: scritto nel destino? Allora, due persone si sono incontrate a un certo punto della loro vita, della loro carriera, e pensandola in modo completamente opposto, divergente, ho deciso di scrivere un libro insieme, perché succede sempre così. Antonio Mancinelli, ciao, buona domenica. Buongiorno a tutti, buona domenica. E Stefano Vighi. Ciao a tutti. Allora, Antonio Mancinelli lo conoscete già perché è stato ospite tante volte in questa trasmissione, caporedattore di Marie Claire, giornalista, insomma, scrittore, perché ha scritto tanti libri ormai. Stefano Vighi, astrologo. Allora, Antonio non crede minimamente nell'astrologia, dice no, sono tutte fandonie. No, più che fandonie, sono come dire delle suggestive costruzioni culturali che ci permettono in qualche modo di individuare anche dei caratteri, degli stereotipi. E di scrivere un libro. E di scrivere anche un libro, ovviamente, e quindi... Così, secondo me, secondo il mio modesto parere, il libro è nato proprio da questo confronto con Stefano, in cui io, come dire, sostengo che ci siano poche cose nella vita democratiche, non so, l'amore, la morte, queste cose proprio fondanti, che in qualche modo ci rendono tutti uguali, e la diversa riuscita di questi due sentimenti così importanti, come dire, la soluzione diversa viene spesso data dalla nostra personalità. Ecco, e invece Stefano la pensa in maniera assolutamente adesso infatti opposta. Poi arriveremo anche a lui. Il libro si intitola Di che amore sei? Insomma, il libro racconta 12 donne simbolo, 12 storie di donne molto popolari, molto 12 famose. Giorni di 12 donne, nel senso che ognuna di loro è stata colta, e questa è stata la grande fatica del libro, di cui adesso stiamo parlando in maniera ironica, ma in realtà è un libro anche abbastanza serio, perché se io che Stefano volevamo analizzare un giorno in cui, come direbbero i giovani, è svoltata la vita, è cambiato qualcosa nella vita di queste signore che casualmente appartengono ognuna a ogni segno dello zodiaco, e poi interviene il mitico Stefano Righi. Ecco, perché Stefano Righi, che non è così casuale, l'astrologo dice, avendo loro, essendo di un determinato segno, avrebbero potuto comportarsi solo in quel modo, in quel momento, o comunque l'inclinazione era quella. Sì, l'inclinazione è quella. Chiaramente il Sole, no? Quando passa in una costellazione, definisce e delinea anche la nostra energia, no? ci racconta. Poi non tutti i Cancri, non tutti i Capricorni, lo sappiamo, sono uguali, ma sicuramente c'è un'energia che li accomuna, e questa energia si esplica, si materializza anche e soprattutto in un ambito così importante come quello dell'amore. Ecco, per cui insomma avete cercato di unire le due cose. Vi siete proprio scontrati anche fisicamente o no, verbalmente? No, non è successo nulla. Allora, tra poco inizieremo con la prima storia di queste donne che farò scegliere ad Antonio. Su 12 tu sceglierai insomma quella con la quale partire per qualche ragione. Aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Da che storia iniziamo, Antonio? Ma sono tutte 12, sono storie tutte quante molto interessanti, molto intense, anche perché hanno delle protagoniste molto intense. Quindi sono, come dire, come volere più bene a mamma e papà, vogliamo bene a tutte. Devi però adesso, così per iniziare. Non lo so, a me ecco, ha divertito molto quando ne parlavamo con Stefano la storia, l'episodio, il giorno che riguarda Lady Di, Lady Diana, sì. Che a pochi giorni dal matrimonio, mentre stava tornando a casa dalla prova del suo abito, il famoso abito con cui si sposò nell'80, trova sul suo letto un biglietto scritto e firmato da Camilla Parker Bowles, che la invita a pranzo e, come dire, le spiega che la situazione non è proprio così idilliaca come lei pensava, come Diana poteva pensare. E dal punto di vista astrologico è interessante, perché io non lo sapevo, me l'ha detto Stefano, sia Lady Diana Spencer sia Camilla Parker Bowles erano tutte e due dello stesso segno, cioè del Cancro. E allora la vera domanda è: come mai una poi ha vinto e l'altra no? O comunque una in qualche modo è finita in maniera molto tragica la sua storia con il principe Carlo, mentre invece l'altra no? E da lì io personalmente ho un po' sceneggiato il possibile dialogo che ci poteva essere stato tra queste due signore che si incontrano, e quindi Camilla si è sposata già sapendo a cosa andava incontro, e soprattutto al fatto che Carlo amasse un'altra persona. Pensate anche al travaglio interiore di una donna che sposa un uomo che comunque sa già di un'altra. Sì. Mentre invece Stefano, su questo doppio, sul fatto che fossero tutte e due del Cancro, ne dà poi una spiegazione a suo modo interessante, molto affascinante, ma per me... Ma perché, scusa, non ho capito, ma questa cosa di Camilla si sapeva già prima di tutto? Assolutamente sì. Ah. È Camilla stessa che lo ha detto a Diana, solo che essendo lei sposata e sì, divorziata, non poteva sposarsi con un principe, quindi sì, la loro storia... Quindi la partenza già si conosce. La partenza già si conosce, sì, e lei trovò proprio sul suo letto, la povera Diana, un biglietto scritto da Camilla. Incontriamoci perché ti devo dire due cose. Esatto, che ti sono... due cose prima che faccia questa cosa. E quindi da parte mia c'è stato anche il divertimento di poter sceneggiare una colazione tra queste due signore. Come hai scoperto questo biglietto? Eleganti. Abbiamo fatto delle grandi ricerche, abbiamo letto moltissime biografie, siamo andati a vedere addirittura tutti gli archivi di giornali dell'epoca, e quindi è tutto molto particolareggiato, è tutto dettagliato, tranne ovviamente non potevamo sapere, non potevo sapere i dialoghi, ciò che si erano detto. Sì, te li sei immaginati, ovviamente. Li sono immaginati, per ora le querele delle viventi non sono ancora arrivate, quindi vuol dire che in qualche modo... O che librone è ancora arrivato, non è ancora stato tradotto in inglese. E no, sappiamo che Mina l'ha letto e ha dato il suo assenso, quindi... Ci siamo. Ci siamo, speriamo di esserci. Adesso vedremo cosa fa Carla Bruni, ma insomma. Sentiremo un po'. Stefano Vighi. Allora, due donne del cancro, una dice all'altra, guarda che in realtà le cose stanno diversamente. C'è già una relazione in corso e tu stai per sposare la persona con la quale io ho già una relazione. Come la spieghi? Bisogna partire dal protagonista maschile, no? Il principe Carlo, uno scorpione a cui viene negata la figura materna a 3 anni. A 3 anni la mamma diventa improvvisamente regina e lui non ha la figura di riferimento, la figura materna. Ora Camilla, che aveva qualche anno più di Carlo, giocò proprio questo ruolo, no? Di amante ma anche di madre accogliente. È tipico di questo segno, che vive proprio il governo della luna, quindi il bisogno di esprimere una femminilità quasi materna, molto morbida. Diana, al contrario, che aveva già avuto una storia abbastanza traumatizzante sui divorzi in famiglia eccetera, cercava una famiglia, quindi arrivava dalla situazione opposta e non riuscì a trovarla, perché il calore era chiaramente qualcosa che non poteva essere contemplato nella famiglia reale inglese. Quindi secondo me Camilla vinse perché aveva il ruolo che serviva a Carlo, cioè quello di essere un amante ma anche essere una madre, una complice, un'amica, mentre Diana faceva la moglie a tutti gli effetti. Quindi in questa cosa prima o poi prevalse appunto Camilla, come poi è successo. Ma anche un po' la figlia, no? Diana si presentava un po' come figlia, come bambina, tutti i problemi, sì, che le insomma, quindi ebbe. Quasi un ménage à trois, però che poteva avere il suo equilibrio, no? Sì, perché poteva avere il suo equilibrio, anche se poi in realtà le cose sono andate in un certo modo, ecco, questi sono imprevedibili, però, è vero quello che dice Stefano, sì. Cioè che forse se una si presentava come mamma, l'altra si presentava come figlia, ecco perché dico funziona, no? Esempio, perché in realtà ognuno ha il suo ruolo alla fine, sì, ecco. Funziona fino a un certo punto, però. Poi Diana aveva dei problemi, come sapete, di alimentazione, cioè tutta una serie di, e se ci pensate bene anche una serie di malattie molto legate a una sfera adolescenziale della propria vita, e quindi tutto sommato probabilmente io lo vedo appunto spiegato in maniera assolutamente psicologicamente e razionale, come appunto l'incontro fra due donne che hanno delle personalità molto diverse rispetto a questo così, non soggetto. So quanto una cosa possa escludere l'altra, ovviamente, no? Le due cose sono vicinate. Questa è la mia opinione, è chiaro che è la mia opinione. Che ovviamente di cui terremo conto. Ma allora, non so i significati dei loro nomi, ovviamente, però adesso cerchiamo di capirli dal punto di vista dell'onomastica. C'è Enzo Caffarelli. Ciao Enzo, bentornato, buona domenica. Ciao, buongiorno, buona domenica. Allora, Enzo Caffarelli coordina il Laboratorio Internazionale di Onomastica dell'Università di Roma Tor Vergata e parliamo proprio di onomastica, quindi nessuna previsione, niente, ma il nostro lavoro, anzi quello di Enzo Caffarelli, è proprio quello di capire l'origine dei nomi e cercare quindi di spiegarne il significato da un punto di vista proprio etimologico. E poi Enzo spesso trova anche delle correlazioni molto divertenti. Enzo, da dove partiamo? Sì, beh, partiamo dall'idea della trasmissione, cioè se il destino è scritto. Io dico che ci sono vari aspetti della questione. Noi dobbiamo partire dall'idea che nel Medioevo i nomi che poi sono diventati i nostri cognomi erano quelli che si riferivano effettivamente a ciò che le persone facevano, erano, cioè uno che si chiamava De Marco era figlio di Marco, uno che si chiamava Napolitano proveniva da Napoli, uno che si chiamava Ortolano faceva l'ortolano. Poi col passare del tempo queste etichette sono diventate sganciate dalla realtà delle persone, per cui oggi la persona che si chiama De Marco e che ha un padre Marco è un caso, la persona che si chiama Ortolani e fa l'ortolano è un caso, la persona che si chiama Napolitano e viene effettivamente da Napoli è un caso. Chiaro. Allora che cosa succede? Succede che queste etichette che noi abbiamo diventano qualche cosa di curioso, qualche volta di più ridicolo nel momento in cui c'è l'identificazione. Infatti su questo hanno giocato molto i comici. Io ricordo per esempio l'imitazione un lavoro di una battuta di Alighiero Noschese, grande imitatore, che diceva il Parlamento italiano ha scoperto che insomma, i nostri deputati non sono particolarmente avvenenti e per questo è stata istituita una commissione ed è formata dagli onorevoli piccoli storti e malfatti. Ma ancora di più su questo giocava Totò, cioè per Totò i cognomi erano la realtà, dovevano avere un valore semantico, cioè dovevano corrispondere alla realtà. Io ricordo per esempio una battuta nel film Totò, Vittorio e la dottoressa, dove si presentava una paziente dicendo: io sono Ada Barbalunga, vedova Barbieri. E allora Totò rispondeva: per forza. E lei diceva: come per forza? Dice: certo, morto il barbiere, la barba si allunga. Cioè, c'era questa identificazione precisa, per non parlare dell'onorevole Trombetta in quell'altra scena di Totò Colori, nel vagone letto, dove Totò lo chiama tromba, trombone, contrabbasso, violoncello, poi lo presenta come suonatore di clarino e poi dice che la moglie, la sorella, non può che aver sposato un bocca, perché dove si mette la trombetta si mette in bocca. Quindi tutta la comicità di Totò sui nomi eccetera era basata su questo. Allora, cosa succede? Succede che quando noi abbiamo una identificazione possiamo parlare di un nome destino, cioè era destino che quella persona fosse bella o brutta o alta o bassa eccetera. No, è semplicemente una coincidenza. Se uno si chiama Piccoli, oppure si chiama di nome Paolo, che viene dal latino e vuol dire lo stesso piccolo, e poi è piccolo di statura, è ovviamente una coincidenza. Ecco, anche certo, perché dicevo che ci sono dei nomi, Enzo, che sono molto chiari, o cognomi, tu dicevi i cognomi, i nomi poi sono diventati cognomi, no? Questa è stata la trasposizione. Alcuni sono estremamente chiari, altri invece non lo sono affatto, bisogna fare una ricerca etimologica per capirne l'origine, e quindi uno non se lo sente neanche addosso, è il caso di Paolo che hai appena citato, per esempio. Sì, certo. Io adesso pensavo sempre ad alcuni calciatori. Sì. Che hanno un po' di destino nel loro nome, perché hanno qualche cosa a che fare con la palla. Per esempio Balotelli, per restare proprio su attualità, il nome del padre adottivo di Mario, sì, Balotelli, deriva da un piccolissimo luogo in provincia di Brescia che si chiama Balotello, dove quel balo, bala, sta per balla, palla. Quindi c'è qualche cosa della palla, del pallone, nel nome. Mi ricordo anche due portieri degli anni 60, uno si chiamava Pizzaballa, e gli dissero: tra l'altro, con quel nome non andrai da nessuna parte. Invece è diventato portiere della Roma, del Verona, dell'Atalanta, e ha giocato anche mezza partita in nazionale. Pizzaballa, tra i vari significati, uno probabile è proprio prendi la palla, acchiappa la palla. Ce n'era un altro che giocò nel Milan che si chiamava Liberalato, che certamente è un cognome adatto a un calciatore, forse più a un terzino che a un portiere, però insomma Liberalato, che poi non vuol dire quello che sembra, ma vuol dire figlio, piccolo o discendente, ato, il suffisso di un liberale. Quindi è stato reinterpretato. Quindi ci sono naturalmente questi nomi che a noi, a chi non studia le etimologie eccetera, possono sembrare del tutto opachi, ma in realtà poi hanno un significato che si può collegare al chiaro, ma è assolutamente casuale. Poi invece la correlazione col mestiere che si fa, oppure con determinate cose della propria vita. Però è divertente, perché tu prendi, non so, una serie di dottori. Sì. C'è un dottore specializzato in traumatologia che si chiama Carne Molla, uno specializzato in otorinolaringoiatria che si chiama Trombino, cioè come la tromba di Eustachio, uno specialista in diete dimagranti che si chiama Grassi, uno specialista in chirurgia plastica che si chiama Pelle. Quindi insomma, bisogna stare anche attenti in questo senso, che tu mi avevi fatto l'esempio di un idraulico che aveva per cognome… Sì. Senza acqua. è tipico, ma c'è anche per esempio una ditta di riscaldamento freddi, una ditta di imbiancature neri. Per cui tu dici, se dovete scegliere un mestiere, in quel caso magari il cognome cambiatelo, perché poi non so quanto possa andare bene. Non è detto poi, guarda, non è detto. Magari funziona, dici. Voglio dire, ci sono delle influenze psicologiche, sì, beh, che chiaro, possono anche portare una persona a fare poi quello che il nome in qualche modo gli suggerisce. E tra l'altro i nomi, voglio dire, è evidente che dal punto di vista scientifico un nome non determina in nessun modo, un nome in sé, il destino, certo, della persona. Però poi ci sono delle situazioni particolari nelle quali avere un nome o un altro è come avere, non so, gli occhi belli o gli occhi brutti, avere una gamba storta o la gamba dritta, cioè fa parte della nostra vita. Per cui ci sono dei nomi che, per esempio, una cosa banalissima, se uno porta un nome estremamente comune, estremamente diffuso oggi, un bambino, beh, può sentirsi a disagio da una parte, perché? Perché magari ci sarà un omonimo o un'omonima più popolare, più diciamo che fa più scena, che è più amata dagli amici e dai compagni, e quindi dovrà sempre vivere all'ombra di questo omonimo. Viceversa, uno che porta il cognome magari del nome del bisnonno, rarissimo, ormai desueto, ormai magari si sentirà a disagio perché è un nome particolarmente ingombrante che nessun altro porta. O magari si sente particolare perché è unico, c'è l'unicità anche in questo senso. Sì, c'è tutti e due i rovesci della medaglia. È vero. Grazie Enzo Caffarelli, voglio ricordare il tuo volume, Dimmi come ti chiami e ti dirò perché, storie di nomi e di cognomi. Buona domenica, ciao Enzo. Grazie, grazie. Anche a te, ciao, ciao. Il riposo del guerriero. Con Antonio Mancinelli e Stefano Vighi stiamo raccontando questo libro, si intitola Di che amore sei, 12 donne simbolo, 12 segni zodiacali, 12 modi di amare per unire l'astrologia alle vicende di appunto 12 donne in questo caso, ma anche a quelle quotidiane nostre, perché in qualche modo tutte le storie possono appartenerci. Si può identificare. Sì, anche perché ci si identifica con il segno. Chissà quante donne pesci si identificano con Liz Taylor, per esempio. Esatto, a proposito di nomi importanti, sì. Elizabeth, no? Elisabetta prima, seconda, e Liz Taylor anche, che di cui abbiamo scelto un momento, un giorno, anzi una notte particolarmente... insomma, impegnative. Col bicchiere di whisky? No, senza bicchiere di whisky. Peggio, con una pistola puntata alla tempia, che forse è un po' più impegnativo del bicchiere di whisky. Wives, insomma. Nel senso, esatto, vedo che, come dire, la cultura una casalinga alta si ti appartiene. Non era proprio casalinga. Non era proprio casalinga, però non aveva ancora i gioielloni che gli regalò Richard Burton, sì. In cui lei venne tenuta veramente sotto tiro dal marito McTodd, che aveva già sottratto a Debbie Reynolds, e per un'intera notte lui vuole ucciderla. Quindi abbiamo veramente immaginato cosa potevano dirsi questi due, con lui che le punta una pistola, anzi una rivoltella, siamo talmente accurati che abbiamo visto che era una rivoltella e una pistola. E devo dire alla fine, visto che poi dopo si è sposata con Richard Burton, sì, più volte, e quindi è finita bene, alla fine lui molla questa rivoltella e dice: sei troppo bella per morire, anche se mi hai fatto molto male, non ce la posso fare ad ucciderti. E tutta questa storia che ho trovato molto romantica, molto importante, assolutamente... Una sceneggiatura di un film. È esattamente scritta come la sceneggiatura di un film, in cui loro due si confrontano, lui e non sai mai come finirà. Non sa mai come finirà. Io ho trovato il suo personaggio, la persona, anzi, anche quella differenza da persona e personaggio è molto interessante, di Liz, estremamente intensa e comunque portatrice di scombussolamenti nella vita altrui, mentre invece Stefano, come vedrete, ne dà un tipo di interpretazione molto diversa, e comunque lei c'è riuscita a convincerlo, McTodd, insomma, a non farla, sì, fuori. Colpa, come diceva giustamente l'ospite precedente, o merito anche dei suoi bellissimi occhi viola, secondo me anche un po' sì, insomma, nel senso che la seduzione alla fine vince sempre, soprattutto se espressa con un viso meraviglioso come quello di Liz Taylor. Stefano Vighi, allora, una pesci. Sì, una pesci, una vera pesci, perché la frase poteva essere sei troppo bella, poteva essere sei troppo, perché i pesci sono troppo per definizione, possono essere troppo belli, possono essere troppo tutto, otto mariti, eccessi, gioielli fantastici, storici. Lei è stata una donna veramente che ha vissuto l'eccesso come una religione di vita quasi. E in questo è stata molto pesci, perché pesci con il governo di Giove, l'esaltazione di Venere, quindi questo bisogno di bellezza, di cose piacevoli, di cose tante per gratificare, in questo caso una femminilità un po' complessa, come era quella di Liz Taylor, una Venere in Ariete, quindi insomma un'espressione femminile non sempre facile, ecco gli eccessi, ecco il bisogno di gioielli, di gratificazione, il sesso vissuto in modo un po' compulsivo. Ma in qualche modo Liz ha veramente incarnato questo segno, là dove il segno può esprimersi al suo meglio, là dove può esprimersi come ha potuto fare Liz, insomma. Sì, anche se non credo che la chiamassero proprio pesci, come per insultarla all'epoca, insomma. La chiamavano water durante Però la chiamavano water. Esatto. Cioè acqua. Acqua, sì. Perché, come dire, quindi... scivolava da un uomo all'altro, Giovanni, in maniera graziata. Beh, quello sicuramente, insomma, questo bisogna dargliene atto. Giovanni Ferrero, buona domenica. Buongiorno, sono qui. Ecco, allora Giovanni, insieme a Celestina Cotti, Fiorenza Morini, ha scritto Serendipity, incontri e avventure di un matematico. Perché? Cos'è la serendipità? È quel fatto, chiamiamolo fatto, non so dire se è un fatto matematico, scientifico, se si può dimostrare anche come una formula, che in qualche modo vi fa scoprire qualcosa di assolutamente inaspettato mentre voi cercavate altro. E questo devo dire che molti inventori, per esempio, è un elemento che molti inventori hanno incontrato nella loro vita, assolutamente per caso, mentre cercavano di risolvere qualcosa ne hanno trovata un'altra che poi ha avuto successo. Come funziona la serendipity, Giovanni? Beh, direi che non è necessario cercare qualcosa, perché chi non cerca qualcosa si può anche semplicemente andare a spasso e trovare qualcosa. Se c'è intelligenza, preparazione e curiosità, allora si capisce che questo produce qualcosa. È successo classicamente per la penicillina, post-it, DNA, per decine di cose naturalmente. Questo ha generato, diciamo, questo romanzo, dove c'è appunto un matematico del tutto normale, nel senso che una persona normale non è come uno dei soliti pazzi che si trovano i matematici nei romanzi, o sono pazzi o sono dei geni. Invece una persona normale che fa matematica, che fa attività normale naturalmente, e incontra poi per caso una ragazza che aveva conosciuto tanto tempo fa e a cui non aveva fatto assolutamente caso, e guarda combinazione serendipicamente si avvicina sempre di più a questa ragazza e via dicendo, e intanto chiacchiera di questo e di quello naturalmente. E i matematici quasi tutti usano la serendipità per fare le cose, perché la vera ricerca matematica è quando si cerca, non quando si fanno delle misure così di questo genere. E allora cos'è? Se si cerca qualche cosa che non si conosce, si trova una cosa che non ci si aspetta, che è nuova, perché se uno sapesse già dove arriva sarebbe inutile fare ricerca. Allora, beh, chiaro. E allora ci sono decine di esempi di questo tipo che sono raccontati poi appunto nelle vicende di questo professore, che viene raccontato in questo libro. Quindi il concetto è: se dovete trovare qualcosa nella vostra vita, dovete cercare, non importa che cosa, l'importante è cercare e fare ricerca appunto da tutti i punti di vista, e qualcosa arriverà, ed è sicuramente qualcosa di inaspettato, perché tu dici, Giovanni, se non sai che cosa cercare, per forza è inaspettato, quindi funziona così. Grazie, buona domenica. Ciao, grazie Giovanni Ferrero. Serendipity, incontri e avventure di un matematico. E io non so, nella vostra vita, qual è stato il vostro momento di serendipità, Antonio? Nella mia vita personale, sì, certo, sicuramente l'incontro con questa professione che non mi sarei mai aspettato di poter svolgere, che è stato del tutto casuale. Non la cercavo, frequentavo una scuola per diventare tutt'altro, mi vergogno a dirlo. Ma che cosa? Cosa avresti dovuto diventare? Quella, la tua ricerca era per? La mia ricerca era per diventare da un lato avvocato, dall'altro stilista di moda, e nel frequentare questa scuola che si chiama Accademia di Moda e Costume, che tuttora è a Roma, incontrai l'allora caporedattore Corriere della Sera, che ci faceva fare dei temini, e disse: ma però insomma, non scrivi male. Bravo. E da quel giorno la mia vita in qualche modo è cambiata, che poi è stato un e l'avvocato è rimasto nel cassetto. L'avvocato mi sono laureato, fine. Non ho mai fatto l'esame, quindi sono laureato in legge, in realtà quello l'ho fatto più che altro per volere. Che segno sei? Io sono Leone ascendente Scorpione. Non faccio dire a Stefano niente, stai tranquillo, della tua combinazione. No, non lo dico neanche io. Stefano, invece, la tua serendipità c'è stata? C'è stata. È stato un giorno in cui facevo tutt'altro mestiere, un mestiere che ha anche a che fare con la casa editrice. Ero in un museo e vidi questo affresco che raffigurava l'astrologia. Sì. E lì fu una folgorazione, veramente fu una folgorazione, capii che qualcosa, c'era qualcosa che aveva a che fare con me, e da lì iniziai a interessarmi, a studiare, ed eccomi qui. No, scusami, dici che mestiere facevi prima, visto che riguarda Radio 24? Facevo il broker, l'analista finanziario, quindi facevo tutt'altro mestiere, però a un certo punto serendipity, no? Cioè, nel senso, a un certo punto... È curioso come, insomma, la finanza, il broker, assolutamente legato al concreto, invece poi si porti a qualcosa che di concreto ha ben ben poco, no. Perdonami, ma non è per cacciare l'astrologia, semplicemente perché di concreto non c'è nulla. Infatti, insomma, questa è la scommessa, è un'ipotesi, me. Ovvio. Scusatemi, sì. Però per esempio adesso, ho già da alcuni anni, alcune grandi aziende assumono anche in base al segno astrologico i loro dipendenti, e non sto scherzando per niente, è così. Quindi evidentemente c'è un'attenzione anche da parte delle, come dire, delle strutture, delle organizzazioni che ci sembrerebbero più razionali anche verso questo aspetto. Tant'è vero, ci sono stati anche dei casi in cui dei possibili assunti si sono poi ribellati dicendo non è beh, certo, sia del, ma no, ma è anche vero, cioè, tu non puoi fare fosse... comunque, non so, Stefano, penso che sia d'accordo con me, magari no, però non puoi fare una distinzione di questo tipo, perché non è vero che una persona dell'Ariete è per forza così, ci sono milioni di componenti diversi, però quindi... forse quello che Antonio dice è proprio un'analisi del tema natale, quindi beh, a quel punto tu hai proprio la tua fotografia. Io quello che dico dell'astrologia, tornando a quello che dicevamo prima, essere concreti, essere reali, l'astrologia è assolutamente, se fatta in un certo modo, una cosa concreta, reale e riscontrabile. Io ho il complesso del coyote, no? Sai, il coyote che a un certo punto cammina sulle nuvole, poi allunga il piede e si accorge di essere nel vuoto. Ecco, quello che noi dobbiamo evitare di fare, noi astrologi. Cioè dobbiamo sempre cercare di muoverci con la consapevolezza di stare facendo qualcosa che abbia una riscontrabilità, per quanto sia possibile, insomma. Questa è un po' la sfida. Allora, tra l'altro voi avete il libro, ha una citazione di Carla Bruni, riporta, che dice: il matrimonio è come l'astrologia, sono in tanti a praticarlo male, ecco. Esatto. Chissà se lei l'ha praticato bene o male il suo matrimonio. O la sua astrologia, chi lo sa? C'è un messaggio curioso che ci ha fatto meno danni l'astrologia che la religione. Sono assolutamente d'accordo. E l'astrologia c'è sempre stata in ogni religione, quindi. E poi anche perché il percepito, no, come si dice oggi, dell'astrologia è comunque, non me ne voglia Stefano e gli altri astrologi, un percepito che comunque ha in sé qualcosa di positivo, anche di lievemente divertente, no? Uno si va a chiedere, mentre invece sulla religione il discorso si fa, ahimè, soprattutto in questi tempi molto più serio. Ecco, a proposito, tu hai detto che hai studiato per diventare avvocato, c'è un messaggio che riguarda i cognomi, anche prima, che dice: un avvocato di nome Scorretti, ecco, deve essere un amico di... un nostro ascoltatore, ovviamente. Allora, Liz Taylor ha questa storia, pesci, e andiamo su un altro personaggio che vi ha incuriosito. Lo so, aspetta, che tutti e 12 sono importanti. È piaciuto molto Marilyn Monroe, per esempio. Sì. Marilyn Monroe è stata un'altra donna che... di cui si è parlato tanto, è stato scritto tantissimo. Voi cosa, quale momento hai scelto di Marilyn Monroe? Abbiamo scelto questo momento in cui lei sta andando a casa sua, provenendo dalla casa di Harry Miller. Voi sapete che lei è stata sposata con Harry Miller, che è stato un grandissimo autore, scrittore, letterato, in qualche modo estremamente intellettuale dell'America degli anni 50-60, mentre veniva da un matrimonio con, e qui il buon Stefano ha avuto un buon gioco a descrivere il segno dei gemelli, da un matrimonio con un uomo che era esattamente opposto, cioè il muscolare Gio Di Maggio. E quindi c'è questo episodio in cui lei racconta un po' quello che sta succedendo all'autista di Henry Miller, che la sta portando a casa, a cui in qualche modo l'ingenua o falsamente ingenua Marilyn chiede dei consigli: ma devo sposarlo, non devo sposarlo, sono innamorata. E in effetti è molto strano pensare a una persona che si innamora prima di una montagna di muscoli e forse un cervello non proprio esattamente esercitato quanto i muscoli, come Gio Di Maggio, che poi si è innamorata e si è veramente innamorata di Harry Miller, che fra l'altro non so chi l'abbia trattata peggio poi di due, forse l'ha trattata peggio un intellettuale, anzi direi proprio di sì, insomma, l'ha fatta soffrire molto. E in questo poi Stefano giustamente mette, no, l'accento sul fatto che, essendo dei gemelli, esprimeva se stessa su due binari un pochino paralleli. Ecco, adesso poi lo sentiremo. Il riposo del guerriero. Scritto nel destino, questo è il titolo della puntata di oggi, e Matteo scrive: nel tema delle elementari, ho scritto che da grande avrei voluto fare l'idraulico o l'elettricista. Ho lavorato per anni in un'azienda di impianti elettrici e automazioni, adesso mi occupo di produzione di rubinetteria industriale. Idee chiare o destino segnato? Certo che se tutti i bambini facessero il lavoro descritto nel tema, avremmo tutti astronauti, calciatori. No? Beh no, per esempio mio nipote disegnava macchinine quando aveva un mese e mezzo, adesso è un ingegnere automobilista. E quindi è scritto anche in quel senso. Forse una vocazione, come va bene, quindi esistono le vocazioni. Anche Stefano Vighi ha visto un dipinto simboleggiare l'astrologia ed è stato chiamato, diciamo così, sulla via di Damasco. Scusa se la vedo, ma perché è bella, è bellissima questa immagine. Dei gemelli stavamo parlando. Marilyn Monroe. Sì. Qui dobbiamo mettere al centro la dualità dei gemelli, sì. Castore e Polluce, il mortale e l'immortale, che poi sono la rappresentazione della nostra componente immortale, l'anima per chi ci crede, quella invece materiale, sì. Che devono trovare un equilibrio, cosa non facile. Allora Norma Jean, che è il primo nome, il nome è vero, di Marilyn Monroe, nasce in un contesto molto difficile, ma poi ecco la dualità, si rende conto di avere delle grandi capacità, innanzitutto fisiche, chiaramente era la bella della scuola, eccetera, eccetera, ma anche la curiosità, la voglia di imparare e di diventare chi poi è stata. Quindi questa dualità in Marilyn Monroe è stata particolarmente forte, se chi vorrà leggere il libro la troverà sempre e costantemente nella sua vita, e è stato un esperimento, se possiamo così chiamarlo, di vita molto interessante, al di là di tutte le vicende chiaramente tragiche e meno belle che poi ha vissuto il personaggio. Ecco, tu hai parlato di questa dualità e adesso lo facciamo anche con Manuela Pompas, che saluto. Ciao Manuela, buona domenica. Ciao. Allora, tu sei esperta, oltre ad essere giornalista, ma esperta di reincarnazione, tra l'altro il tuo ultimo libro si intitola Reincarnazione, una vita, un destino. Certo. E quindi ti volevamo chiedere, insomma, ancora una volta, perché è stato detto tante volte, ma fa sempre bene sentirlo, questo karma che ci portiamo dietro, no? Sì. Qualcuno dice un karma cattivo, che cos'è e possiamo cambiarlo, cioè ammesso che ci sia, perché questa certo. è sempre la domanda, allora, io ovviamente cosa possiamo fare? Occupandomi da 30 anni di reincarnazione ci credo, beh, chiaro, è certo. possiamo dire che è un'ipotesi di lavoro. Dobbiamo sempre mettere il puntino sulla I. Intanto karma vuol dire agire, però noi lo usiamo nel senso di destino, sì. non vuol dire destino. Allora, secondo la teoria della reincarnazione, quando noi scendiamo sulla Terra, scendiamo con un progetto, con un contratto, con un progetto. E questo progetto viene fatto dalle azioni del nostro passato. Allora, per esempio, se io ho rubato, mi troverò a avere dei grossi problemi economici, avrò i ladri in casa, se io sono stata una persona per bene, avrò una vita magari con delle maggiori soddisfazioni, se ho tradito, verrò tradito. Diciamo che c'è un po' la legge del contrappasso, sì. del taglione, come lo vogliamo chiamare. E noi scendiamo con questo progetto. E a volte ci sono delle persone con delle storie più difficili, perché magari vengono da errori pesanti o non risolti. Però non è una condanna eterna. È come il nostro purgatorio, il senso del karma, cioè io scendo, capisco che non devo più rubare, capisco che devo essere generoso, capisco che devo avere un'etica, chissà i nostri politici che karma avranno nella prossima vita, e vabbè, messa lì così. E se io risolvo i miei problemi, se io capisco, intanto accetto di più quella che è la mia storia, cioè io magari ho pochi soldi, se capisco che questo problema mi deriva dalle mie azioni, cerco di vivere più in equilibrio nella situazione in cui sono. E se lo risolvo io posso cambiare il mio destino. Però voglio dire una cosa carina rispetto ai bambini, che è bella quella storia che avete raccontato, perché la nostra mente non ricorda il progetto, ma l'anima sì. Allora ci sono dei bambini che sanno cosa sono venuti a fare, ma sono tantissimi. Facendo una conferenza, per esempio, mi è venuto in mente che io a 8 anni ho fondato un giornale, si chiamava Il Grillo Parlante, fatto col ciclostile, perché io sono sì. della generazione post-guerra, e poi me ne sono completamente dimenticata, sono usciti 4 fogli per 3 volte, poi me ne sono completamente dimenticata. Io a 20 anni sono entrata in un giornale, adesso sto progettando un giornale online. Ecco, tu dici quindi... Da bambina, poi me ne sono dimenticata perché avrei voluto fare... Io sono acquario, l'acquario fa tutto, potevo fare la ballerina, l'esploratore, l'ingegnere, il medico. E sono tornata a qualcosa che da bambina io avevo già dentro. Ecco, quindi e tu dici... Sto facendo un libro sui bambini indaco, sono tantissimi bambini che sanno cosa sono venuti a fare al mondo. Però per loro è un gioco, è un certo, non se ne rendono certo conto, ovvio. Non è una cosa razionale, certa, una decisione, come se lo sapessero. Va bene, quindi io ho colto dalle tue parole che noi stiamo vivendo il purgatorio, insomma alla fine è così, per tutti noi è così. Sì. È qualcuno l'inferno, sì, vabbè. Qualcuno quindi... vive vive sotto le bombe o nei campi. Questo sicuramente, e bisogna paradiso chiedersi. Pochissimi, paradiso, i grandi illuminati, pochissimi, sì. Tra l'altro c'era padre Balducci che diceva: sì, si potrebbe unire il concetto di reincarnazione con il nostro concetto di purgatorio, che è un posto, è un non luogo dove noi scontiamo e cresciamo, e più cresciamo più ci avviciniamo alla perfezione, una parola grossa, all'illuminazione, alla risoluzione dei nostri problemi. E non è un concetto per cui si sfugge dalla responsabilità e viceversa. Chi crede alla reincarnazione si prende la responsabilità di tutte le proprie azioni, per crescere, per vivere meglio, per pagare i propri errori passati, ma anche per sviluppare i talenti. Francamente a me il fatto di dover pagare gli errori passati nella mia vita precedente, cioè il pensiero solo di questa idea non piace affatto, scusami Emanuela, perdonami, però già insomma si nasce con il peccato e poi devo anche cercare di rimettermi a posto in carreggiata e quindi patire la mia vita non è un'idea che mi piace molto, è semplicemente una... Così, è un'esternazione. Antonio, cosa volevi dire? No, volevo solo chiedere alla collega, perché sì. Appunto siamo giornalisti tutti e due, ma il fatto di avere, credendoci, lo stesso karma, però nascere a New York e, non lo so, in Etiopia, non fa cambiare un po' le cose? Non fa cambiare un po' le cose? Beh, ma io ho scritto un articolo dove dicevo che di là c'è un regista che affida i copioni, per cui io nasco a New York o in Etiopia o in Cina... con un motivo, perché devo passare da quella cultura e quell'esperienza, perché noi dobbiamo fare tutte le esperienze. E prima dicevo, a nessuno piace, ma noi non siamo in contatto con l'anima, siamo in contatto con la mente, l'anima diciamo eterna, la mente è legata alla cultura. E se io vado a scuola e non studio chimica, io vado a ottobre e devo ripetere quell'esperienza, e se non la studio neanche per ottobre verrò bocciato e devo ripetere un anno. È lo stesso concetto, siamo a scuola, è come se fossimo tutti a scuola. Grazie Emanuela Pompas, reincarnazione, una vita, un destino, il sito è karmainstitute.it. Grazie, ciao Emanuela, buona domenica. A me mi girano un po', lo dico seriamente. Perché se devo pensare, capito, che devo pagare le colpe di qualcun altro che c'era prima di me, e non so neanche chi potresti sia. Potresti consolarti perché nella reincarnazione potresti diventare, non so, e ma non me ne rende, ma non me rende, ma no, non ha parlato di questo, non ha parlato di questo. Un banco da seta. Ecco, e c'è Serena Basiri al telefono, e non voglio farla aspettare. Ciao Serena. Buongiorno. Aiutaci tu. Qual è il problema? Allora, Serena Basile, psicologa, presidente dell'associazione Dentro un Quadro, per capire questo destino un po' se ce lo creiamo anche noi. Beh, assolutamente sì, insomma, parlando di destino a me viene anche un po' da sorridere, nel senso che destino è un sostantivo, però destino è anche un verbo, è anche un verbo che ha un soggetto, io destino. Quindi pensandoci, insomma, poco fa mi veniva un po' da sorridere su questa cosa, nel senso che spesso quando si parla di destino è come se fosse qualcosa calato dall'alto che preme sulla persona, che quindi incide irrimediabilmente su quello che la persona possa vivere indipendentemente da sé. In realtà, insomma, non è tanto così, cioè nel senso che la psicologia proprio insegna come senza dubbio l'essere umano vive la sua vita con delle predisposizioni, facendo delle esperienze, e siamo un coagulo di memorie, no? Che poi si traducono in tutta una serie di schemi, anche di aspettative nei confronti della vita che viviamo, e tante volte non ci rendiamo conto che quelle robe lì sono dei modi di sentirci all'interno delle esperienze, che hanno una storia, la nostra storia, e che ci portano ad interpretare le cose in un certo modo e a predisporci all'interno degli eventi che viviamo quasi già costruendoli, e quindi tendendo poi a insomma confermare delle aspettative che possono essere negative ma anche positive. E quindi va a rinforzare un po' un'idea di destino, come se fosse qualcosa che a noi le cose vanno in quel modo lì perché sono sempre andate in quel modo lì piuttosto che in quel modo là, ma in realtà c'è sempre un'azione, un esserci molto attivo del soggetto che costruisce, tante volte precostruisce quello che poi insomma andiamo a vivere. Ecco, allora in questo senso, Serena, scusa, chi legge le previsioni, adesso parlo di quelle generali, non sto parlando di astrologia fatta seriamente, sì. Ecco, però ma le previsioni bisogno che si fa leggere le carte, queste cose, cioè sì. Ne posso dire, citare molte. È molto meglio se il futuro predetto è un futuro positivo, perché la persona si mette già in posizione ottimista rispetto al proprio futuro, piuttosto che l'inverso. Se no finisce che si crea automaticamente quello. Beh, cioè, senza dubbio, insomma, se vado a farmi leggere le carte e mi viene detto qualcosa di negativo, cioè lì nella persona possono scattare tutta una serie di meccanismi che dipendono da come quella persona funziona. Ecco, quindi in questo senso chiedo di fare molta attenzione a chi fa questo tipo di previsioni in generale, perché non si sa mai chi sia di fronte in quel momento. Grazie Serena Basile e ci risentiremo presto. Buona domenica. Bene, grazie, ciao. Il riposo del guerriero. 11 e 6 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Siamo partiti da un libro oggi intitolato Di che amore sei? 12 donne simbolo, 12 segni zodiacali, 12 modi di amare, scritto da Antonio Mancinelli e Stefano Vighi, due persone in contrapposizione. Stefano Vighi è l'astrologo e Antonio Mancinelli invece non ci crede affatto, ma racconta le storie di queste donne. Abbiamo detto che avremmo parlato di Mina, è uno dei pochi personaggi italiani che ci sono in questo libro. L'altro è sì. Carla Bruni, ma non so più come considerarla, perché lei non si considera più italiana, per cui sì, è francese ormai. Non si considera no. più italiana, Carla. Sì, Carla Bruni. Invece sì. Mina si considera italiana. Anche come? Se vive in Svizzera, anche ma se vive in Svizzera, da molti anni ormai. E di Mina invece abbiamo scelto questa giornata molto, secondo me molto significativa poi della sua personalità. Lei è stata non soltanto un artista, ma anche una persona, una donna estremamente coraggiosa, ed è il giorno in cui lei si rende conto, siamo nel 63, di aspettare un bambino da Corrado Pani, non so se vi ricordate, è un famoso attore, soprattutto di teatro, e essendo lui sposato, lei no, all'epoca nell'Italia bigotta, cattolica di allora, questa cosa costituì. Venne cacciata anche dalla Rai. Venne no? cacciata dalla sì. Rai, ci fu un grande scandalo. Lei rifiutò di prendere soluzioni alternative, quindi decise di tenere il bambino, il famoso Pasciughino, insomma, sì. Poverino, gli è rimasto appiccicato questo soprannome per tanti anni, adesso fa 50 anni, il povero Pasciughino, detto Massimiliano in realtà. Sì. Detto questo, appunto, abbiamo analizzato il giorno in cui lei decide di tenere questo bambino e inizia a vedere, ahimè, nelle edicole, alcuni, quelli che oggi chiameremo giornali di gossip, no? Alcune riviste, dei rotocalchi dell'epoca, però questo non fa altro che renderla più forte, tant'è vero che lei poi alla fine di questa storia telefonerà al manager e annullerà le date del suo concerto. Lei ha appena cantato Le mille bolle blu, vi ricordate la canzone molto carina, dove fra l'altro lei venne molto criticata per fare quel gesto con le dita mano, sì. sulla bocca, perché era considerato peccaminoso. E devo dire che per fortuna, siccome il libro è stato anticipato da Vanity Fair, dove Mina scrive una rubrica, Mina l'ha letto e non sono giunte notizie, quindi evidentemente non dobbiamo aver detto delle sciocchezze così enormi. Concordava. Devo dire, grande coraggio, una persona che, come diceva la professoressa prima, affronta i problemi. Ecco, secondo me la differenza fra le persone è proprio nel come si affrontano i problemi. E se posso aggiungere un'ultima cosa, era d'accordo con l'ospite, la signora, la psicologa precedente. Sì, sì. Perché per esempio abbiamo visto che casualmente, senza accorgercene, c'è Brigitte Bardot e Jane Fonda che hanno avuto tutte e due lo stesso uomo, che si chiama Roger Vadim, ma di come Roger Vadim nella vita di Brigitte Bardot sia stato assolutamente fondamentale, quella di Jane Fonda sì, quindi evidentemente se c'è un uomo che è lo stesso, che ha lo stesso carattere, il fatto che poi abbia avuto pesi morali differenti nelle vite di queste persone indica proprio il fatto che la nostra personalità cambiare, quella che certo. poi insomma, determina in qualche modo, in qualche sì, modo fa prendere delle decisioni, delle scelte in Stefano un certo Vighi, senso nell'altro. La caparbietà di quella donna poteva essere solo Ariete, così è. Assolutamente. Il coraggio di sfidare una società italiana, no? di quegli anni così bigotta, il coraggio stesso di uscire da questa comoda vita di provincia, lei stava facendo già ragioneria, a un certo punto contro la famiglia molla tutto e comincia a cantare. E vorrei dire una cosa, il fatto che lei abbia fatto la sua più grande, che noi abbiamo scelto come sua scelta più, scusate il gioco di parole, più importante, appunto, di portare avanti una gravidanza nonostante tutto, è molto interessante perché l'Ariete, con l'esaltazione del sole, parla proprio di incipit, di scintilla vitale. Quindi per l'Ariete è molto importante il concetto di trasmissione di vita. Ecco perché abbiamo anche scelto questa decisione. Completamente diverso rispetto al segno opposto, la Bilancia, dove Brigitte Bardot ha un figlio ma lo rifiuta immediatamente. Quindi la Brigitte Bardot che si batte per i cuccioli di foca, però non riesce ad accettare la maternità, per esempio. Ecco, poi prima Mancinelli, Antonio, così hai detto, stesso marito per due donne diverse, sì, appunto due donne di segni comunque differenti, e quindi hanno vissuto quest'uomo in modo diverso. Insomma, quando incontri qualcuno, in base anche a questo incontro di segni, le cose possono prendere una piega, diciamo, positiva, chiamiamola così, oppure una piega un po' meno simpatica. E in questo senso Antonio Capitani ha appena pubblicato Astro Love, Amori Zodiacali. Ciao Antonio, buona domenica. Buongiorno. Ciao, ciao. Allora, chi può renderti felice, chi può rovinarti la vita in base al tuo e ovviamente al suo segno di nascita? Questo non vale solo per l'amore, vale per tutto. Questo vale un po' per tutti i settori della quotidianità, quindi l'amore, il lavoro, le amicizie, i rapporti familiari, quindi un po' tutte le aree relazionali. Voglio salutare i tuoi ospiti che ho visto tra l'altro qualche sera fa, perché ero presente alla presentazione del loro libro. Ciao Monimo, grazie di tutto. Ciao, ciao Antonio. Grazie a voi. Ecco, tra l'altro il libro di Antonio Capitani uscirà, penso, la settimana, martedì prossimo. Sì. Esce martedì 2 luglio, sì. Sì, un giorno prima del mio compleanno, mi auguro che sia di buon auspicio, insomma. Vedi che anche gli astrologi si danno del Beh, la presentazione l'abbiamo fatta con astrologia lettiva, quindi. Ecco, perché va bene così. Antonio, allora, velocemente, non c'è molto tempo, puoi darci qualche combinazione che trovi particolarmente fortunata e qualcuna che trovi un po' meno utile? Ma guarda, quando devo fare un esempio di accoppiata, forse meglio assortita, che non vuol dire eterna, perché due segni possono andare d'accordo fra loro, ma l'amore è eterno, è perfetto, insomma esiste solo in un mondo ideale. Io faccio sempre l'esempio di Toro e di Scorpione, che sono due segni che si fagocitano, che si divorano a morsi di passione, e anche se dura solo 5 giorni la loro storia poi rimane comunque scolpita indelebilmente nella memoria di entrambi per i secoli dei secoli. Mentre forse quella che io ritengo un assurdo astrologico è quella formata da Cancro e Acquario, che forse non hanno molto da dirsi, che rappresentano mondi molto differenti, sono un po' come acqua e olio, fanno fatica ad amalgamarsi. E poi, insomma, per il resto, anche se poi Cancro e Acquario forse nelle location, chiamiamole proprio dell'intimità, ecco, rifanno scintille, ma forse dovrebbero limitare il loro rapporto soltanto agli scambi di amorosi e passionali sensi, non di più. Diciamo che queste sono un po' gli esempi che io faccio sempre, mentre se dovessi reggere una coppia regina dell'estate, non so se Stefano, che è un bravissimo astrologo, sia d'accordo, io leggerei Pesci, perché è il segno che secondo me ha transiti, gli assist planetari più brillanti. Quindi la coppia formata da due persone dello stesso segno, quindi segno dei Pesci, secondo me è proprio la coppia. Ecco, io non so poi questa coppia cosa concretamente riuscirà a portare avanti, però insomma ma guarda che cacchio, i Pesci hanno un senso pratico, un pragmatico. No, beh, ma era solo una battuta, ecco, tutto qua. Stavo pensando a Liz Taylor in questo momento, insomma, perché insomma, ha portato avanti molto, cambiando un po' e rappresentando un po', come Stefano diceva, i Pesci. Chiaramente poi nel libro sono descritte tutte le combinazioni possibili, quindi se volete conoscere la vostra combinazione e vedere un po' come va, allora prendetelo come spunto. Grazie Antonio, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica a tutti voi. Amori zodiacali, io poi tra poco vi chiederò una, insomma, chiusura del libro e quindi un'opinione sull'astrologia alla fine, come la definireste, perché Antonio resta, anche dopo aver scritto il libro con Stefano Vigli, resta comunque della sua opinione, ma nessuno voleva fartela cambiare. No, assolutamente, non c'è mai stato nessun tipo di scontro. E Stefano Vigli anche credo che resti la sua opinione. Aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Io vi inviterei, metterei una telecamera qui con il quello che succede fuori dalla diretta, perché comunque si continua la discussione, no? Non è solo quello che sentite voi, ma c'è anche una parte, spesso è più divertente, sicuramente comica, che invece non va in onda, e dovremmo farla ascoltare, magari lo metteremo sul sito, lo registriamo. Un po' come Ricche Gianni, facciamo Jung diceva: tutto ciò che non arriva alla coscienza ritorna sempre sotto forma di destino. A me sta parola spaventa, lo dico subito. Allora, io intanto volevo, prima di chiederti soprattutto a te definizione di astrologia, volevo fare l'elenco dei nomi, sì, delle donne raccontate in questo libro. Sono Mina per l'Ariete, Audrey Hepburn per il Toro, Marilyn Monroe per i Gemelli, Lady Di per il Cancro, Madonna per il Leone, Peggy Guggenheim, che è una storia anche molto interessante, molto, per la Vergine, Brigitte Bardot per la Bilancia, Grace Kelly per lo Scorpione, Jane Fonda per il Sagittario, Carla Bruni per il Capricorno, scusate sorrido, Mia Farrow per l'Acquario, Elizabeth Taylor per la Pesci, no, solo sorriso, ecco, pensavo al Capricorno e alle canzoni di Carla Bruni, bene, ho fatto questa associazione mentale e ho detto ci sta, la querelina è metà querelina. Allora, dopo questo libro che hai scritto con Vighi, Antonio, la tua opinione dell'astrologia? Io rimango della mia opinione, sì, e quindi trovo che l'astrologia sia un metodo, sia un processo estremamente suggestivo, del resto appunto come giustamente dicevi tu, che sei un uomo di ricche letture, Jung gli dava molta importanza proprio per ricondurre, no, determinati, in senso buono, stereotipi, alcune personalità, sì, e quindi trovo che esattamente come la religione in qualche modo aiuti a poter dare un certo senso di ordine a questo mondo così caotico, disordinato, in cui molto spesso, come giustamente sottolineavamo prima, non riusciamo mai a trovare un senso di giustizia, mi verrebbe da dire, o comunque un perché alle nostre domande esistenziali. Quindi va benissimo, per chi ci crede trovo che sia assolutamente positivo, anche dire divertente, che comunque però posso finire. Devo dire che da quando conosco Stefano mi sento molto Leone ascendente Scorpione, ecco, quindi ti rappresenta, mi ritrovo moltissimo, e tutto sommato il fatto che lui mi dica ma quello dei Pesci o quell'altro non so è del Capricorno un pochino, e lo diceva anche addirittura Eugenio Scalfari in qualche articolo di qualche anno fa, che lui non ci credeva, però ritrovava che in alcune persone nate in determinati periodi dell'anno, ahimè, c'erano delle similitudini. Comunque, al di là che ci si creda o meno, è una grande disciplina, sì, simbolica, che è bellissima da studiare dal punto di vista filosofico, se vogliamo, al di là poi che uno la applichi, una bellissima storia che si perde veramente la notte dei tempi. È proprio così. Stefano Vighi, invece ti chiederò solo quanto l'astrologia determina o predispone, insomma la classica, ecco, domanda, ma a cui vorrei tu dessi la tua visione della cosa. È una domanda da $1 milioni. 100 pistole. Io faccio sempre un esempio molto stupido, sì. Immaginiamo una nostra giornata particolarmente importante, dove facciamo delle grandi scelte, poi arriviamo a casa la sera, troviamo una busta sul tavolo e lì ci sono scritte le scelte che abbiamo fatto. Sì. Questo ci fa pensare che le nostre scelte non siano state libere? No. Allora, i pianeti non sono chiaramente né delle divinità né nient'altro, sono semplicemente dei corpi che rappresentano, simboleggiano, tu hai detto simboli, sì, giustamente. L'astrologia è una disciplina simbolica. Assolutamente, ecco, sì. Jung. Cioè. Quindi loro rappresentano delle forze, Marte la forza fisica, Venere l'amore, eccetera. Il fatto che siano in una posizione piuttosto che l'altra indica che l'energia dell'universo di cui noi facciamo parte, no? Marco Aurelio, eccetera, vanno in quella direzione, e siccome noi siamo il prodotto di una certa energia che assorbiamo al momento della nascita, io credo che poi rispondiamo di questa nostra energia rispetto alle energie che via via si vanno formando. Questa è un po', secondo me, cercando di ridurla proprio... Sì, ma sei stato molto chiaro, credo che... Vabbè, a questo punto, scusate, la domanda cattiva, sì, questo sì, serve anche a giustificare il fatto che moltissimi astrologi fanno sempre delle, quello che io chiamo post-visioni. Allora ritorno che sempre a Carla Bruni e ritorno a leggere. Nel senso che tu dico, l'avevo detto io che no, sarebbe successo una cosa che è sempre passata. Tu dici, posso ma dire? Se fai l'astrologo, dimmi cosa succede domani. Così. No, avevo fatto la previsione su una grande lezione, quella del nuovo Papa Francesco, e chiunque può andare in internet a vederla sul sito di Marie Claire, ho previsto un Papa Papa che veniva da lontano e che sarebbe stato estremamente riformatore, quindi non è vero che facciamo sempre previsioni. È un po' lasca come definizione. Ma io direi che si possono anche non fare le previsioni, è interessante invece analizzare le personalità, almeno dal mio punto di vista. Sì. Grazie Antonio Mancinelli, grazie Stefano Vighi, di Che Amore Sei, e adesso è il momento invece della nostra glottologa. Senti chi parla. Stiamo facendo parlare Carmina Burana, ma adesso c'è Francesca Dragotto, la nostra glottologa. Ciao Francesca. Buongiorno, che bella, che meravigliosa apertura. È vero, si ascoltano molto volentieri, però spesso il testo sfugge e quindi è necessario magari stamparselo, leggerselo, come quando segui l'opera. Ma adesso noi lo analizziamo almeno per qualche parola. Questo può essere un modo per rilanciare il latino e invitare chi non lo conoscesse a riaccostarsi a questa lingua che è poi la base della nostra cultura e che è tuttora la sostanza. Il testo si apre con un'invocazione alla fortuna, la fortuna che come la luna cambia il proprio stato, la propria condizione e quindi alterna fasi di crescita e fasi di decrescita. Continua con delle considerazioni sempre relative alle condizioni della fortuna e per passare poi nella seconda strofa a parlare della sorte, la source, perché sorte e fortuna non sono esattamente la stessa cosa, come non lo sono il fato o il caso. Ecco, allora sorte perché non è la stessa cosa di fortuna? Comune ai due termini una condizione fondamentale che è quella di costituire delle voci medie, che significa che in sé il termine non indica necessariamente la condizione positiva, quindi se dico fortuna posso riferirmi sia alla buona che alla cattiva sorte, è dunque una vox media, però il fatto che normalmente questo termine sia evocato in riferimento a condizioni positive ha fatto sì che in alcuni dialetti o in altre lingue romanze, basti pensare allo spagnolo, il termine suerte, appunto, che è l'evoluzione di sorte, significhi in sé già buona fortuna, tant'è che ci si saluta dicendo suerte, quindi augurando buona fortuna. È vero, notavo però un fatto che almeno così nel linguaggio di tutti i giorni si preferisce la parola fortuna quando si intende dire qualcosa comunque di positivo e sorte invece quando si intende dire qualcosa che potrebbe non essere così positivo. Sì, e questo si spiega abbastanza facilmente guardando al modo in cui funziona la lingua. Sarebbe in qualche modo troppo pesante gestire due termini perfettamente equipollenti, quindi il parlante cerca di distribuirne l'uso e si crea a monte delle ragioni per far sì quello che hai appena descritto, quindi dire questo, vanno bene tutti e due, però questo è meglio in un caso, questo è meglio nell'altro. Bene, quindi ci inventiamo l'italiano anche un po' noi, questo ci lo fa solo piacere. Riscriviamo il latino poi in realtà, no? Perché appunto, basti pensare che la radice di fortuna è la stessa che utilizziamo quando diciamo forse, e in forse abbiamo mantenuto questo carico di potenzialità assoluta che va tanto nel versante positivo tanto in quello negativo. È vero. Un'altra parola legata al destino ovviamente è il fato. Oh, sì, però è ha una storia completamente differente, perché il destino proviene dal verbo destinare, che è collegato con il verbo stare, mentre il fato è collegato con un verbo di dire, con uno dei diversi, non posso dire tanti, però insomma dei diversi verbi che il latino disponeva per dire, appunto, dire. In particolar modo il verbo for faris, che al participio passato faceva fatus e al neutro fatum, quindi è fato ciò che è detto, naturalmente che è detto dagli dei, divinità assolute contro cui nulla. E quindi il fatto non si può cambiare, quello è il senso. Sì, il senso è questo, la radice la utilizziamo tutte le volte che vediamo un bambino appena nato, perché la stessa radice di fato la ritroviamo anche in infante, perché? Perché definiamo, anzi identifichiamo il bambino neonato appena nato con colui che non parla, in fans, che è letteralmente appunto colui che ancora non parla. E poi ancora la medesima radice la ritroviamo nelle fate delle favole, perché le fate sono le divinità inviate dal destino per cambiare la sorte, giochiamo sempre con la stessa costellazione terminologica, per cambiare la sorte di un individuo, per lo più del protagonista. E finiamo con il caso. Il caso caso di nuovo ha a che vedere con un verbo di movimento. Il verbo in questo caso è quello di cadere, non con la pronuncia, cadere nella pronuncia latina, e quindi abbiamo un'idea che è più legata al movimento e che si contrappone a quella invece legata alla parola che ho appena commentato. Grazie Francesca Dragotto, voglio ricordarvi il blog, il sito che è tuttopoli.com, dove troverete anche delle aggiunte rispetto a quello che Francesca ha detto, e a questo punto buona suerte. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Oggi voglio introdurre questo spazio dedicato ai giochi e videogiochi con i fumetti, e visto che l'argomento di oggi è il destino, vi invito a rivivere quello di Black Macigno, che è un'icona del fumetto avventuroso italiano degli anni 50, dove si rivive un'epopea ambientata durante la guerra d'indipendenza americana. E ogni lunedì, dal 1 luglio, troverete in edicola, insieme al Sole 24 Ore, un volume in formato speciale dedicato proprio alla serie Il Grande Black. E questo lunedì arriverà il primo fumetto della serie intitolato Trappers alla riscossa. E per gli appassionati, e anche per tutti, comunque, sono disponibili i contenuti bonus online che troverete insieme al piano dell'opera all'indirizzo www.ilsole24ore.com/ilgrandeblack. E dopo i fumetti invece passiamo ai giochi, e quando si parla di destino vengono immediatamente in mente i dadi, che spesso servono per giocare una partita e che fanno anche arrabbiare, perché quando non escono i numeri che si vogliono si comincia a perdere, ma grazie al cielo c'è anche la strategia, anzi soprattutto quella. Ciao Andrea Ligabue, buona giornata, buona domenica. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Sì, parlare di giochi e parlare di dadi spesso coincidono, sono argomenti molto vicini. Già ai tempi di Giulio Cesare, della sua famosa frase "il dado è tratto", diciamo, il dado è simbolo di decisioni, di probabilità e anche di gioco. Quindi ottimo spunto per parlare di giochi e di dadi. I dadi nel gioco da tavolo moderno hanno passato un periodo in cui erano molto bistrattati, visti come un aspetto negativo, perché rappresentavano appunto la casualità che sembrava contrapporsi con la strategia. In realtà negli ultimi anni sono stati pesantemente rivalutati e sono stati introdotti proprio come gioco, come parte base del gioco, da cui poi discendono delle strategie. Oggi vi volevo parlare di alcuni giochi di dadi moderni, uno diciamo più adatto a un pubblico di massa, quindi adatto a tutti, un gioco leggero che si può portare anche in spiaggia, un altro invece un pochino più complesso. Il primo gioco di dadi comunque a cui bisogna fare riferimento è lo Yahtzee, gioco famosissimo specialmente nella cultura nordica dell'Europa, basato su semplicemente dadi, sul lancio di dadi, da cui hanno preso origine poi tanti altri giochi successivi. I due giochi di cui parlo oggi però sono il Verme Tratto e King of Tokyo. Nel Verme Tratto è un gioco molto semplice in cui ci sono delle tessere numerate dal 21 al 36 e il giocatore lancia 6 dadi e la somma di quei dadi lì deve corrispondere a una delle tessere non ancora prese disponibile in gioco, e se un giocatore riesce a farlo si prende questa tessera. A fine partita chi ha più tessere o di valore più alto vince. E in realtà il gioco è più sofisticato, si usano dadi particolari che al posto del 6 hanno un verme, però essenzialmente il concetto è questo. È un gioco piccolino, si può portare in tasca e può essere portato anche in spiaggia, perché essendo fatto di dadi e tessere pesanti non patisce la sabbia, non patisce il vento, non patisce altri problemi. L'altro gioco di cui volevo parlare invece è un gioco di un autore molto famoso, di Richard Garfield, che è l'autore di Magic the Gathering, quindi diciamo uno dei giochi più famosi al mondo, e si chiama King of Tokyo. I giocatori sono dei mostri che devono distruggere la città di Tokyo o distruggersi tra di loro. E il gioco si sviluppa tramite il lancio dei dadi. Nel proprio turno il giocatore lancia dei dadi e questi dadi indicano che tipo di azioni può fare il proprio mostro. Oltre ai dadi e ai mostri, nella scatola del gioco sono presenti delle carte che sono dei poteri speciali che i mostri possono acquisire e comprare durante la partita, migliorando le loro capacità. Questo gioco ha avuto un successo enorme, è distribuito in Italia da Uplay ed è veramente divertente sia per i bambini che per gli adulti. Ecco, tra l'altro hai citato lo Yahtzee e volevo ricordare che ormai sono tante le applicazioni proprio per gli smartphone e anche per i tablet che ripropongono questo gioco o nella sua versione originale o nella sua versione, diciamo così, rivisitata. E, per chiudere, Andrea, volevo chiederti cosa pensi dei dadi, perché quando si pensa alle sei facce numeriche viene in mente anche il gioco d'azzardo. Ecco, diciamo che parlare di gioco dicendo gioco d'azzardo, secondo me sono due concetti che stridono. E personalmente ritengo che il gioco non sia il gioco d'azzardo quando il gioco viene contaminato da interessi economici e il valore del giocare diventa quello di vincere o perdere dei soldi, non più quello di divertirsi e stare insieme. Secondo me il gioco viene snaturato. Ci sono delle campagne organizzate dai giocatori e dalle associazioni di giocatori molto forti che vogliono proprio chiedere anche a livello nazionale che venga fatta distinzione tra la parola gioco e gioco d'azzardo. Ad esempio, quando ci sono campagne pubblicitarie che dicono il gioco fa male, il gioco non fa male, il gioco fa benissimo, è il gioco d'azzardo che fa male, oppure il gioco non è adatto ai bambini. Sono campagne equivoche che creano danno al mondo del gioco, che invece è un mondo che propone dei valori sani di intelligenza, strategia, amicizia, collaborazione. E che certo, che noi cerchiamo anche di promuovere in questo spazio. Grazie Andrea Ligabue, il nostro ludologo, anzi vi ricordo il suo sito che è ludologo.com. Buona domenica. Buongiorno, buongiorno e ben collegati dalle meravigliose colline toscane. Le immagini che vedete vi arrivano dal Mugello, dove tra pochi minuti assisteremo alla partenza della quinta gara della MotoGP. La voce che avete sentito è quella di Guido Meda e adesso scoprirete perché c'è la sua voce protagonista, almeno in questo modo, di un videogioco di cui parleremo tra poco. C'è Irvin Zonca, responsabile game designer di Milestone. Ciao Irvin, buona domenica. Ciao ragazzi, buona domenica anche a voi. Responsabile del game design di Milestone, che è una realtà italiana che è appena uscita con un titolo importante che è MotoGP 2013. Io prima di entrare un po' nel vivo, nel raccontare MotoGP 2013, volevo fermarmi su Milestone perché, visto che oggi parliamo di destino, diciamo che il destino di Milestone è stato cercato, nel senso che si è molto insistito per cercare di riuscire ad avere una forza come la vostra in Italia. Che, insomma... Esattamente. Milestone è una realtà ormai che è presente in Italia dal 1995 addirittura. Ha iniziato con un videogioco che con le corse non c'entrava nulla e poi subito l'anno dopo essere nata è uscito il suo primo gioco in realtà di corse di rally assolutamente arcade. Ha avuto un successo enorme e si può proprio dire che sia stato un caso del destino, perché da quel primo titolo, da quel giorno, Milestone per 20 anni ha cavalcato la cresta dell'onda proprio di quel genere di giochi racing e ha avuto differenti successi che sono stati legati anche a licenze molto importanti e famose a livello globale, come ad esempio la Superbike, il campionato del mondo rally e soprattutto in più di un'occasione MotoGP. E infatti siamo stati assolutamente contenti di tornare di nuovo nel 2013 a occuparci di MotoGP a livello internazionale, a livello mondiale, con MotoGP 13 che è uscito appunto questo 21 giugno non solo in Italia ma nel mondo, e quindi ha portato un po' di italianità nelle corse, non solo con Valentino Rossi ma anche con Milestone nel mondo dei videogiochi. Ecco, a proposito di questo, quanto è impegnativo dal punto di vista economico portare avanti una società di questo tipo, una delle pochissime realtà italiane così importanti anche a livello internazionale? L'impegno è assolutamente enorme e il carico di lavoro va portato avanti giorno dopo giorno. Tu conta che, per darti qualche esempio, per noi il poter sviluppare MotoGP vuol dire investimento da milioni di euro, vuol dire comunque uscire fuori con un sacco di soldi che devono garantire la produzione di un videogioco nell'arco temporale di quasi 2 anni. Pagando ovviamente tutte le persone che ci lavorano sia internamente ma anche esternamente, con outsourcing a livello sia italiano che internazionale, puntare tutto sulla qualità e l'appealing del videogioco che si sta sviluppando, e in questo diventa importantissimo anche il tipo di licenza che viene utilizzata, in questo caso MotoGP, una licenza che può dare dei ritorni economici assolutamente rilevanti, e questo investimento deve essere portato avanti fino alla fine con convinzione, con impegno, per poi poter rilasciare sul mercato mondiale il prodotto, stampandolo, distribuendolo, prendendo accordi, insomma. È uno sforzo veramente grande che per una realtà italiana che è quasi unica nel suo genere e in queste dimensioni è decisamente una cosa particolare e fortunatamente ben riuscita. Ecco, tra l'altro, proprio perché avete avuto la licenza dal MotoGP, dovete essere precisissimi, per esempio, per quanto riguarda la ricostruzione dei circuiti del giri, e soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, gli sponsor che si vedono durante il percorso, perché tutto deve rispettare esattamente la realtà, quindi non soltanto il gioco, che tra l'altro in questo caso vi vede veramente protagonisti, perché vi darà l'impressione di essere voi gli artefici del vostro destino dal punto di vista della carriera motociclistica, o magari prendere in mano il destino di qualcun altro, di qualche motociclista famoso, però insomma l'impegno è anche quello di rispettare il più possibile, anzi dovrebbe essere proprio identico, la realtà. C'è stato qualche difficoltà? Ce ne sono state sicuramente. Qualche momento di scoramento c'è stato? Guarda, sicuramente in questa rincorsa del destino, che è una definizione perfetta, perché alla fine l'obiettivo principale di MotoGP 13 è di seguire il destino di questo pilota virtuale, che è quello di diventare il campione del mondo della classe regina, la MotoGP. Ovviamente di problemi poi risolti, come normale in tutte le cose, ce ne sono state varie. Uno in particolare può essere un chiaro esempio per tutti, è quello del circuito di Texas, di Austin in Texas. Quest'anno è la prima volta che la MotoGP ha corso su quel circuito, e il problema per noi è stato avere tutto quello che ci serviva per riprodurlo addirittura prima della realtà. Noi abbiamo riprodotto il circuito lo scorso autunno e lo scorso inverno, l'abbiamo dovuto riproporre fedelmente al pixel, tutti gli sponsor nel posto giusto, le curve con la giusta altimetria, le tribune, gli archi, eccetera, eccetera, mesi prima che addirittura fosse pronto nella vita reale. E quindi questo è stato possibile anche grazie a una stretta collaborazione con Dorna, che è poi l'organizzatrice del campionato, con il quale abbiamo un ottimo rapporto. Per forza dovete averlo, anche perché dovete lavorare davvero in sinergia. L'ultima cosa che ti chiedo, Irvine, è questa: se ci sono delle possibilità di lavoro in questo settore in Italia, non soltanto per quanto riguarda la Milestone, ma in generale, come la vedi? Assolutamente sì, assolutamente ci sono le possibilità di lavoro, Milestone è sicuramente la realtà più grossa e più conosciuta a livello internazionale che sia presente in Italia. La cosa buona è che probabilmente anche sulla scia dei nostri successi e del fatto che stiamo dimostrando che anche in Italia si possono fare videogiochi di buona qualità riconosciuti internazionalmente, anche altri studi più piccolini stanno iniziando a emergere in altri campi e in differenti, diciamo, specializzazioni. State dando coraggio, insomma, agli altri. Però secondo me sì, siamo la locomotiva che sta un po' trainando tutto il settore in Italia, ne siamo orgogliosi anche di vedere gente che cerca di seguire il nostro percorso, e insomma direi che assolutamente sì, le possibilità esistono, e anzi invito chiunque a farsi avanti, a proporsi, a mandare il curricula qua da noi, perché siamo assolutamente interessati anche ad espanderci. Ecco, disponibile, lo ricordo, per tutte le console, per PC anche attraverso Steam. Grazie Irvine Zonca, MotoGP 2013, ma non soltanto, Milestone in generale, grazie per essere una realtà italiana così forte. Grazie a voi. Le suggestioni del gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica. Allora, io comincerò da una suggestione che so già che tu sorriderai, perché andiamo a Buccinasco, all'isola di Wight. Andiamo a cantare. Andiamo a cantare con i Dig Dig, perché si mangia e si canta. E io consiglio di andare per passare una serata magari retro, tornando indietro appunto in questo luogo magico, ovviamente quando ci sono i tre Dig Dig, però anche quando canta il cuoco e la cantante, secondo me è piacevolissima la serata, e devo dire che è una trattoria, quindi uno non si aspetti un ristorante molto sopraffino, però quello che viene servito è un mangiare, diciamo, da trattoria, quindi apprezzabile. Io lo consiglio perché è una bellissima serata. Poi molte volte quando c'è l'ambiente, quando c'è l'allegria, quando c'è la simpatia, anche qualche difetto sul cibo si passa sopra. Quindi è una serata sicuramente piacevole nell'isola dei White, dei Dick a Buccinasco. Bene, il secondo suggerimento è che dal 5 al 7 di luglio ci sarà Marsala Wine, questa bellissima città, secondo me poco considerata dal punto di vista delle bellezze, soprattutto invece considerata già per il nome dal vino, aprirà palazzi, aprirà luoghi d'arte, si aprirà appunto celebrando il vino, anche perché sarà quest'anno, nel 2013, la capitale del vino. Quindi sicuramente un viaggio che vale la pena, poi credetemi, è una città tutta da scoprire. Il vino sicuramente si conosce, anche perché Marsala non produce solamente il Marsala, ma vicino ci sono tantissimi viticoltori, tantissime aziende vinicole, quindi che saranno in grado sicuramente di farvi assaggiare il meglio di quest'area così importante anche a livello mondiale, anche di tradizione e di storia, pensando a questo vino inventato da un viaggiatore inglese, quindi sicuramente vale la pena. Poi ci sono anche dei luoghi bellissimi da vedere, luoghi, cantine, quindi un invito a andare tutti a Marsala. L'ultimo suggerimento è un suggerimento che riguarda Radio 24, riguarda la mia trasmissione Personal Chef, anche perché ieri è stato un successone, devo dire, sono arrivate 200 ricette a base di pomodoro, questa è una gara indetta proprio fra i radioascoltatori. Bene, questa settimana, già da ieri, è stato lanciato, diciamo, l'ingrediente per la prossima settimana, che è il riso, quindi mandate tutte le ricette che volete a gastronauta@radio24.it, queste ricette verranno, diciamo, esaminate, verranno poi portate in trasmissione 4 ricette con un grande chef che farà da consigliere, come è avvenuto ieri, e parleremo anche del prodotto riso, ovviamente. Quindi sicuramente una bellissima gara, devo dire che le prime ricette sul pomodoro, alcune sono state veramente interessanti, così giudicate anche dallo chef Sadler, che era presente in trasmissione. Quindi fate altrettanto con il riso, vincerete, i 4 che saranno scelti vinceranno tutte le guide, le 12 guide del gastronauta, e quindi credo che sarà un premio molto interessante. Ecco, parola di gastronauta. Ecco, per me il premio è assaggiare invece le ricette preparate, però, ecco, non soltanto scritte, ma anche assaggiate. Sì, ma devo dire che ci sono alcune di queste ricette che qualcuno sicuramente sta provando a cucinarle, e devo dire che l'unica mancanza che c'è in molte di queste ricette che arrivano, non c'è la grammatura. Una cosa già presente nell'Artusi, forse è un difetto italiano, questo della non precisione, e questo lascia, molte ricette che sono state inviate purtroppo lasciano così un po' a desiderare, proprio per questo motivo. Il famoso a occhio, ecco, così, sì, a scelta. A occhio, a mo, sì. Ma devo dire che c'è stata anche due ricette davvero intriganti dal punto di vista linguistico, e la nostra linguista del cibo ha analizzato, alla fine scoprendo che era un linguaggio inventato. Quindi molto bello anche questo, divertente, quindi continuate a mandare tutto quello che volete e noi lo guarderemo con molta attenzione. Quindi ricette con il riso, gastronauta@radio24.it. Grazie Davide. Esattamente, alla prossima. A domenica prossima. Manè in 24 minuti. Per voi biglietti per andare a vedere la mostra Palazzo Ducale a Venezia, ammesso che riusciate ad associare il titolo di un'opera di Manet a una canzone. Il numero per partecipare è 800 24 00 24, e questa è la canzone. È simpatia, non è davvero, io sono tua, non è davvero. Sguardo d'amore, la spada è nel cuore e ci resterà. Famosissima traccia di Little Tony, la spada nel cuore. C'è Stefano da Ascoli Piceno. Ciao Stefano, buona domenica. Buongiorno, grazie anche a voi. Allora Stefano, grazie, e a questo punto dovresti darmi il titolo di un'opera di Manet. Ti dico che è un acquaforte. Ai ai ai. Per cui è un po' è meno famosa sicuramente, sì, è un acquaforte, però guarda, è facile, nel senso che avevo pensato, c'è un protagonista all'Olimpia l'abbiamo già anche citata come opera, tra l'altro. Stavo aiutando dicendo: guarda, c'è un protagonista nel quadro. C'è un protagonista. E cosa posso dire? Dai, buttati lo Non mi sorviene niente. Stefano, ti devo salutare, purtroppo. Mi dispiace. Ciao, anche a me. Grazie, ciao. Marta da Verona. Pronto? Marta, tra l'altro sei anche vicina a Venezia, allora, sì, in autostrada e sei arrivata. Allora, Marta, c'è un protagonista in questa acquaforte, il cui titolo ha a che fare con la canzone di Little Tony che abbiamo sentito prima. Io ho pensato all'uccisione del toro. E immaginavo, guarda, ho detto, guarda, secondo me dice l'uccisione del toro, ma non è quella. Non è quella. Che rabbia. Mi spiace. Lo so, perché è famoso in effetti, ma è un dipinto, e invece questa è un'acquaforte, esatto. Quindi è meno famosa. E ti devo salutare, cosa devo dire? Ciao, grazie. Ciao. Renato, Renato da Treviso. Ciao Renato. Ciao, scusami. Io ho pensato una cosa, ma credo di aver sbagliato. Renato, allora, vediamo un po' di avvicinarci, cerco di aiutarti. Allora, c'è un protagonista. Io ho maschile, pensato, quindi, perché mi sono fissato su Manet, perché io lo amavo. Sì. Fin da giovane. Lo amerai ancora. Di conseguenza, è stato uno dei dipinti che mi ha colpito di più. Però credo di aver sbagliato. No, anche perché questa è una. In ogni caso, è Fuga da Alcatraz di Zola. Invece, purtroppo, non è quello. Non è però, ti ringrazio, Renato. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti. 800 24 00 24, c'è Alessandro da Brescia. Sì, buonasera. Alessandro, buongiorno. Sto cercando di aiutare in tutti i modi, ma non vengo ascoltato, non vengo preso sul serio. Allora, c'è un protagonista su quest'acquaforte, il cui titolo ha a che fare con la canzone che abbiamo sentito. Dunque, la canzone che abbiamo sentito era Ragazzo con Spada, giusto? No, la canzone che abbiamo sentito era La spada nel cuore, ma il titolo dell'acquaforte è Ragazzo con spada. Eccolo là. L'ho presa. Eh sì, è così. Grazie. Niente a te. Perfetto, io sono già a Venezia, quindi adesso mi dirigo alla mostra e con i vostri biglietti. Ma non arrivano così in fretta, devi aspettare. Ah, beh, se stai qualche giorno, sì, ok. Purtroppo siamo proprio a Venezia adesso, quindi andremo e poi ritorneremo. Vabbè, questo volentieri. Mi auguro che possa essere così. Grazie Alessandro, ciao. Grazie buona, a voi, grazie a buona voi, gita. Buona giornata. Ciao. Grazie. Tra l'altro a Palazzo Ducale, per cui non si può non andare, ovviamente. Silvano da Brescia, ciao Silvano. A Palo da Parma, ma è lo stesso. Non ho capito, scusami. Parlo da Parma. Ah, va bene, ok. Allora, scusami. Allora, cambia la canzone, cambia la risposta, ma è molto più facile e tu non dovrai dirmi il titolo di un'opera di Manet, ma dovrai dirmi il nome di un museo che ha a che fare proprio con la mostra di cui stiamo parlando, la mostra di Manet a Venezia. È stata allestita con la partecipazione di un museo e vorrei sapere quale museo. Ascolta la canzone. Ma insomma, non è che non vai in stazione, in stazione. Questo è Ivano Fossati e avrei capito il titolo, Silvano, della canzone, perché lo dice 500 volte, che è È che si sente male sul cellulare. Comunque ci tento. Sì. Certamente le opere arrivano dal Museo d'Orsay di Parigi. Silvano, perché ho scelto quella canzone, secondo te? Guarda, devo dire che ho dovuto spegnere la radio. Non sentivi, va bene. Stazione, perché il Museo d'Orsay è stato costruito dentro la Gare d'Orsay, che era una stazione, certo. Ecco perché anche questo era il motivo. Bravo Silvano, che grazie. Io ho visto più volte a Parigi. Ecco, bene, sì, in effetti è bene ritornarci, onestamente, ho fatto la stessa cosa. Grazie Silvano, ciao. D'accordo, grazie. Buona domenica. Ciao, grazie. Buona domenica. Allora vi faccio ascoltare la canzone che sarà quella per la settimana prossima, alla quale poi dovrete dare una risposta. Eccola qua. Questa è la voce di Sarah Brightman per la canzone che vi porterà a indovinare il titolo dell'opera settimana prossima, puntuali come sempre nel Riposo del Guerriero. Il numero che vi servirà è 800240024, ma dovrete giocare ovviamente la settimana prossima. Grazie a tutti, grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Benedetta Acri in assistenza, Peter Bescapè in regia, e a voi come sempre davvero buona settimana da Stefano Gallarini.